Ultima mezz'ora di Pandemonium, abbiamo l'appuntamento con la chiacchierata con Antonio Bacciocchi e Tony Face. Ciao Tony, ben trovato. Ciao, ci sentiamo una volta al mese ormai, quindi va bene. Sì, è vero, sei un grande contribuente, direi, del programma. Era un po' di tempo che non ci sentivamo, ma l'occasione è ghiotta. Stiamo sentendo The Real Me, traccia di apertura di Quadrofenia, e tu hai fatto questo libro che esce oggi, dedicato appunto principalmente al disco che usciva all'inizio di novembre del 73 e poi anche al film che è seguito qualche anno. Senti, so che ami molto, sei un grande raccontatore ed è un grandissimo piacere ascoltarti, ma immagino ti dovrò contenere su questo tema. Senti, so che comunque Quadrofenia per te è un disco cruciale per la tua educazione di appassionato di musica e anche di musicista. Bene, diciamo che è il mio disco preferito in assoluto, per sempre, per tutti i secoli dei secoli, perché comunque è stato, l'ho comprato sia a metà anni 70, è stato uno dei primi, anzi la prima più che disco cassetta che comprai di rock. Avevo preso Beatles, i Rolling Stones, Jimi Hendrix, e poi mi consigliarono questo gruppo The Who, e inizialmente volevo comprare Tommy, era esaurito nel negozio in Pendai, mi diedero Quadrofenia e mi innamorai tantissimo di questo album, perché è un album innanzitutto, diciamo che più che un album è un'opera rock, sì, però è proprio un'opera totale, nel senso che comunque c'è un racconto molto dettagliato, c'è un'orchestrazione incredibile, soprattutto per i tempi. Ricordiamoci che Quadrofenia, e lo sottolineo nel libro, è una cosa che viene poco ricordata, è uno dei primi album elettronici, perché buona parte del disco è fatta con sintetizzatore da Pete Townshend, che appunto introduce gli archi e le tastiere eccetera con sintetizzatore, per cui è un primo connubio molto diretto di rock e elettronica. E poi vabbè, racconta la storia di un mod, e quindi insomma diciamo che proprio dall'introduzione che Pete Townshend fa all'interno del disco comincia a capire qualcosa di più su chi erano questi fantastici mod, che a quei tempi in Italia insomma non se ne sapeva quasi niente. Non ne capii molto, perché era lo scritto interno di Pete Townshend che cerca di insomma di contestualizzare l'opera abbastanza nebuloso, però insomma poi foto che c'erano dentro un disco mi fece un'idea insomma di cosa poteva essere questo movimento mod, anche seppur in maniera molto così insomma molto confusa. Quindi... e poi vabbè, poi c'è la musica, cioè comunque la musica è pazzesca, perché comunque sono dei brani incredibilmente duri, come dice Pete Townshend proprio, e ho riportato questa sua considerazione all'interno del disco, i Who sono sempre stati un gruppo secondo lui molto portati a un'opera orchestrale, perché comunque John Entwistle aveva una formazione classica, aveva studiato corno inglese, fiati. Townshend ascoltava, si è ispirato per fare Quadrofenia dichiaratamente a Bach e Wagner, e Keith Moon lui sostiene che, in effetti se ci pensiamo, lui abbia sempre suonato in maniera orchestrale, nel senso che non ha mai fatto i tempi canonici quattro quarti così, ma ha sempre fatto quello che fanno abitualmente i timpani e le percussioni all'interno di un'orchestra, cioè spaziano, girano, fanno un po' i cazzi loro così. Per cui insomma Quadrofenia ci fa. E poi l'ultima cosa, secondo me è uno dei migliori suoni degli strumenti che si siano mai sentiti, la batteria, il basso, la chitarra, i fiati, tutto, sono suoni curatissimi e bellissimi proprio da ascoltare, proprio di per sé, insomma, perché è il culto dei suoni, dei dischi. E poi vabbè, i brani sono stupendi, perché insomma è il disco più bello del mondo da sempre, per sempre. Senti, tra l'altro immagino che, cioè credo che, io non sono un cultorissimo degli Who, ma quando credo sia proprio il titolo più associato al concetto di The Who. Volevo chiederti una cosa, il titolo Quadrofenia, che accenna credo a una inesistente patologia psichiatrica, ma fa riferimento a quattro personalità distinte che sono quelle dei membri del gruppo. Sì, infatti inizialmente il progetto di Pete Townshend era di fare un album che si chiamava Four Faces, quattro facce, e riservare ad ognuno dei quattro una facciata compositiva eccetera, però vabbè, poi insomma La cosa non andò in porto, decise di comporre tutto lui. È l'unico album degli Who che lui è composto interamente da lui, non c'è nessun apporto di John Entwistle o degli altri. E sì, praticamente ogni ci sono vari, sono quattro temi che rappresentano ognuna delle degli aspetti caratteriali degli Who, il folle Keith Moon. No, niente, parlavo del fatto della quadrofenia di Jimmy Cooper, il protagonista di Quadrofenia, che è associata bene o male ad ognuno dei caratteri dei quattro Who. E tra l'altro introdotta in qualche modo anche del brano che abbiamo ascoltato, The Real Me. Insomma, è una cosa un po' complessa, diciamo, da approfondire, perché poi Pete Townshend è sempre stato un compositore con delle idee molto particolari, molto complesse, mai semplici e molto filosofiche e così. Però insomma, diciamo che rappresenta bene, secondo me, quello che succede in adolescenza, no? Quando non sai bene che strada prendere, quando non sai bene cosa scegliere, quando sei confuso e quindi hai molteplici personalità che cerchi di seguire per trovare un'identità. E il Quadrofenia, insomma, l'ha rappresentato molto bene, secondo me, proprio questo passaggio dall'adolescenza alla vita adulta di un ragazzo che, passando attraverso varie avventure all'interno del movimento mod, del suo gruppo di amici, eccetera, capisce che forse è arrivato il momento di diventare grande, diventare adulto, e si rassegna in qualche modo a diventarlo. Anche perché un altro aspetto che magari è sempre stato poco sottolineato, che siamo nel 73, è un momento in cui la musica è monopolizzata dall'hard rock, dal glam, eccetera. E invece Pitano si fa una roba orchestrale un po', però soprattutto i testi dell'hard rock e del prog parlano di sesso, droga, rock and roll, oppure di elfi, dragoni e quant'altro, no? E invece qua si parla di un ragazzo della working class, un ragazzo proletario che ha poche possibilità nella vita per emergere e che cerca proprio attraverso l'identità mod di diventare qualcuno. C'è il brano I'm One, io sono uno, non sono comunque qualcuno, però poi diciamo che la vita lo ricaccia indietro e alla fine, una fine che Pete Townshend ha lasciato in sospeso, perché nell'album sostanzialmente Jimmy va su uno scoglio a meditare su quello che gli è successo, non si capisce se poi si suiciderà negandosi o se tornerà appunto alla vita normale. Però è un ragazzo sconfitto, no? Sconfitto dalla società, che in qualche modo, certo, deve farsene una ragione. Senti, tornando alla tua esperienza, poi c'è anche invece il film che esce 6 anni dopo. Tu dicevi che è curiosissimo sul mondo mod, qualcosina non chiarissimo avevi carpito dalle note di copertina e dall'idea grafica della copertina del disco, ma tutto si fa più chiaro a questo punto quando esce il film. Beh, il film è stato, diciamo, momento in cui poi riesplode la scena del cosiddetto mod revival, perché comunque c'erano già tanti gruppi inglesi, primi tra tutti i Jam di Paul Weller, che già dal 77 portavano avanti un'immagine, comunque anche delle sonorità care ai mod, così. Però diciamo che era una situazione molto molto di nicchia. Chiaramente col film Quadrofenia ritorna mediaticamente tutto la passione per il mod, per gli anni 60 e per quant'altro, che ricordiamoci, cioè, la scena mod era finita sostanzialmente più o meno nel 65-66, siamo nel 79, quindi 13 anni prima, ecco, non sono passati secoli. Comunque ritorna tutta in qualche modo questa, anche i vestiti, i gruppi e quant'altro, ma soprattutto la cosa più importante è che Quadrofenia arriva in tutto il mondo e crea le nuove scene mod in tutto il mondo, proprio si creano attraverso il film, perché comunque molti ragazzi e ragazze vanno a vedere il film, si identificano, cominciano a vestirsi in quel modo, a voler fare musica di quello stampo, eccetera, e quindi anche in Italia, in Germania, in America, in Giappone nascono le nuove scene mod, che sono tuttora vive e continuano in qualche modo a produrre gruppi e a proseguire da allora, ecco. Senti Antonio, quando tu ti occupi di qualcosa mettendolo su carta e facendo un libro, lo fai sempre non in modo asettico, ma sempre filtrandolo attraverso la tua sensibilità e la tua esperienza. Anche in questo caso, credo, nel libro c'è un capitolo che parla dell'importanza di Quadrofinia sulla nascente scena mod italiana. Beh sì, certo, come dicevo, praticamente fino a quel momento c'erano stati alcuni ragazzi e ragazze sparsi nella penisola che erano in qualche modo vicini all'identità, alla filosofia mod, soprattutto grazie a Paul Weller e ai Jam e alle prime cose che arrivavano dall'Inghilterra. Però Quadrofinia praticamente definisce anche esteticamente, insomma, come bisogna vestirsi, che cosa bisogna fare, insomma è qualcosa che va non in tutte le case, però tutti quelli che vanno a vedere il film Quadrofinia in tutta Italia vedono una nuova realtà che non è così ostica ed estrema come il punk, è qualcosa di più, diciamo, abbordabile anche da un punto di vista etico, estetico, e quindi in tanti si avvicinano a questa nuova filosofia e nascono anche tanti gruppi, gli Underground Errors a Roma, i 4x8 a Milano, poi arriveranno gli Statuto, insomma comincia tutta una nuova scena, cominciano anche delle serate mod in vari posti e insomma cominciano ad aggregarsi tante persone. A Bologna c'era il Casalone dove cominciano a nascere delle serate proprio appositamente riservate a chi era appassionato di mod e affini, per cui insomma si crea questa scena che poi pian pianino a sera d'uni comincia a collegarsi l'uno con l'altro e non è più, non sono più nicchie isolate qua e là, ma cominciano, insomma, ci si comincia a frequentare e diventare una bella scena. I primi raduni c'eravamo anche in 500-600 persone col park eccetera, per cui insomma era una realtà molto molto viva e stato molto entusiasmante, anche perché eravamo ragazzi di 20 anni, quindi tutto questo tipo di cose le prendevi in un altro modo, ecco, non saggiamente, ma facendo, certo, cercando di fare più casino possibile, perché era quello che facevano poi, certo, in Quadrofinia, cercando i rocker da picchiare, ma non c'erano di rocker, per cui qui eravamo lì così. Poi sono andati gli skin e sono cominciati un po' di guai, perché non sempre andavamo d'accordo, nonostante la matrice fosse comune, insomma, tra skinhead e mod, però insomma ci furono un po' di schiaffi e anche qualcosa di peggio ai tempi, insomma. Senti, nel libro c'è tutto, c'è anche l'analisi delle liriche di Pete Townshend, e quindi lo consiglio a tutti, esce oggi credo sulla casa editrice Interno 4. L'ultima domanda classica per chiudere, un film che secondo me ha retto molto, un film e un disco che reggono molto il test del tempo, si ascoltano, si vedono bene, tracciano uno spaccato di una società, di un feeling, di una cosa, qual è il messaggio che dà ancora attualmente Quadrofinia? Il messaggio bene o male vedo che non è cambiato molto, no? Nei giovani quello che si cerca quando si è adolescenti così è un'identità, no? Un modo di essere, cioè chi sono io, cosa faccio, come sarò nella vita, cosa conto in questa società. E Quadrofinia in qualche modo risponde a queste domande. Il problema è che è un approccio a un tema che al giorno d'oggi forse è un po', ripeto, attuale, ma è desueto come viene spiegato da Pete Townshend, no? Però secondo me non tutto è perduto, nel senso che comunque il messaggio rimane uguale, rimane quello, e boh, insomma l'invito anche ai più giovani è di ascoltare, approfondire Quadrofinia, perché qualche risposta c'è ed è molto molto bello, anche insomma, anche se un album di 50 anni fa è ancora molto molto attuale secondo me.